sì. Grazie. Scusi che sono in mezzo. Ci mancherebbe. A non venire. Chiedo scusa, tanto. Ora. Che ci frega di Pietra Ligure, che la conosciamo bene. Buonasera a tutti, grazie. E io un ringraziamento devo farlo a voi, a tutti quelli che hanno deciso di venire questa sera a parlare di un tema che credo che a Pietra sia molto importante per tutti, che è il futuro dei cantieri navali ex Rodriguez. E credo che sia davvero una serata importante per Pietra Ligure. Come ci eravamo impegnati a fare in maniera del tutto trasparente e immediata, vogliamo presentare e condividere con la cittadinanza gli interessi progettuali attuali e la nostra visione in merito all'area dei cantieri, così come vedrete l'idea progettuale che ha presentato la proprietà. E la riqualificazione di quest'area penso che sia un aspetto vitale per il futuro di Pietra Ligure e per la nostra amministrazione, che ha sempre ribadito la volontà di portare avanti un processo decisionale, trasparente, e così abbiamo fatto. Ma una breve storia. Il cantiere ha chiuso nel 2006. È cominciato uno sviluppo del progetto e la condivisione con gli enti sovraordinati. In questi anni, sono stati parecchi, abbiamo fatto sì che gli operai che erano ancora in forza al cantiere avessero una redditività dovuta alla cassa integrazione. Quando non è stato più possibile accedere alla cassa integrazione nazionale, l'abbiamo fatto anche intervenendo con la regione per garantire la cassa integrazione in deroga. È qualcosa che agli operai ha consentito di andare avanti quegli anni. Poi il tutto purtroppo è sciamato e anche gli operai fra pensioni e altre cose non ce n'era più. Il progetto è stato approvato nel 2014 e a gennaio del 2015 è stata stipulata la convenzione urbanistica che dava via il via all'intervento. Questa è la delibera madre da cui parte tutto, la delibera 44 del 2011, in cui si è stabilito in maniera puntuale quali saranno le destinazioni previste nel progetto di trasformazione urbanistica dell'area del cantiere. Un'area importante con un fronte importante. La delibera che vedete proiettata prevede queste destinazioni: il porto turistico con annesse le strutture pubbliche, strutture ricettive, strutture residenziali e strutture produttive. Quindi già questa delibera, che si chiama valutazione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 5 della legge 509, il cosiddetto decreto Burlando, già fissava quali erano le volontà di realizzazione. Questa delibera, e bisogna dirlo, è stata votata dalla maggioranza di allora, compatta, e chi oggi per soli fini elettorali disconosce quel progetto medesimo, credo che o ha la memoria corta o certamente qualcos'altro. Non solo, per dimostrare quello, veicola anche un progetto mai condiviso dall'amministrazione comunale, che avete visto e vi hanno dato in un volantino questa sera. Come detto, il progetto è stato approvato nel 2014, a gennaio del 2015 stipulata la convenzione urbanistica. Da allora, dal 2015 al 2022, complice la crisi immobiliare internazionale e poi l'epidemia di Covid, l'iter del progetto ha rallentato, era inevitabile. Nel 2022 succede un fatto però rilevante e determinante. La società SRL Pietra Ligure, proprietaria del cantiere, cambia proprietà. Dal gruppo Colaninno passa al gruppo Costing di Bergamo, società del gruppo Polifin. Da tale data il gruppo Costing si è attivato per capire quali erano le possibilità di aggiornamento e attualizzazione del progetto approvato nel 2014. Erano passati parecchi anni e un'idea del genere credo che fosse addirittura assolutamente percorribile. L'amministrazione comunale si è resa disponibile a prendere in esame le modifiche solo, e dico solo, ed esclusivamente a una condizione: che venissero rispettati i parametri, le destinazioni e i volumi, specialmente per quanto riguarda il residenziale, del progetto approvato, ripeto, anche da chi fa finta di non sapere, ma c'era e l'ha votato. Quindi sia chiaro, progetti diversi condivisi con l'amministrazione, come è andato nel volantino stasera, per noi non esistono. Noi vediamo soltanto un progetto, un'idea progettuale che vedremo stasera, e che è quella che l'amministrazione ha condiviso come variante. Questa sera siamo qui tutti per vedere l'idea progettuale, come ho detto, per la trasformazione urbanistica dei cantieri navali. Coerentemente con l'impegno che abbiamo assunto, e come ho detto in precedenza, con la città per questo importante passaggio, che è un passaggio che certamente dovevamo rendere trasparente e pubblico. E l'avremmo comunque fatto. C'è stato un grosso lavoro in questi anni dell'amministrazione comunale. Ringrazio tutta l'amministrazione comunale che questa sera per così la vicinanza, l'aiuto e la condivisione che è stata fatta, in particolare il vice sindaco Rimbaldo e l'assessore Amandola, che per quanto di competenza hanno coadiuvato il sindaco nei rapporti con la società. È certo che questo sia un bel lavoro. Io, come mi piace dire ogni tanto in queste occasioni, non so se questo è l'ottimo. Credo che però tante volte per cercare l'ottimo non si fa neanche il bene di qualcosa. Quindi credo che questa che vedrete stasera sarà un'ipotesi però verificata, e un'ipotesi che, stando a quelle che sono le proprietà, a quelle che sono il decorso che ha avuto la proprietà dell'area del cantiere sia un percorso obbligato. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e credo, spero, che possiate condividere con noi quello che vedete stasera. Grazie. Grazie. Chiamo sul palco il dottor Massimo Tibegna, consigliere delegato di Polifin, e l'ingegner Davide Albertini Petroni, amministratore delegato di Costin. Buonasera a tutti, io mi presento, tanto grazie per essere qui con noi. Io sono Massimo Tivegna, sono consigliere delegato di Polifin. Polifin è una società, una holding di proprietà della famiglia Bosatelli. Colgo l'occasione appunto per portare i saluti anche della famiglia Bosatelli. Siamo orgogliosi di essere qui a Pietraligure, di poter appunto collaborare con voi, con il Comune, nella realizzazione di questa importante opera di, diciamo, di rigenerazione, che dal nostro punto di vista ci consentirà di restituire alla città un'area che, diciamo, come abbiamo visto, è stata inaccessibile per alcuni anni, trasformandola, riteniamo, in un polo urbano di integrazione e benessere cittadino. Noi diciamo, abbiamo avuto modo di sviluppare con successo un progetto simile, diciamo una versione cittadina a Bergamo. La inaugureremo probabilmente quest'autunno, ottobre, novembre, e devo dire che è un progetto di successo, perché sicuramente ci ha consentito di recuperare un'area industriale e di creare, in termini di indotto, un importante indotto per le aziende del territorio e per tutti quelli che poi lavoreranno all'interno della Smart City che andremo a inaugurare. Stiamo parlando di 70.000 metri quadrati di sviluppo che prevederanno appunto la creazione di un'arena, di un albergo, di residenze, eccetera, eccetera. Quindi ci auguriamo di poter, di poter sviluppare anche in questa occasione lo stesso sviluppo in termini di successo che abbiamo avuto appunto a Bergamo. Poi magari lascio la parola a Ingegner Albertini, che è l'amministratore delegato di Costim, per avere magari qualche dettaglio in più dal punto di vista tecnico. Dai. Salve. Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie al sindaco per averci invitato. Allora, tanto Costim è una realtà, un gruppo industriale dello sviluppo immobiliare delle costruzioni che ha nella rigenerazione urbana il suo DNA, quindi noi rigeneriamo aree dismesse. Si può sentire. Ed è un qualche cosa che è di grandissima responsabilità, perché ovviamente recuperiamo delle aree lasciando un segno estremamente importante sul territorio, e quindi lo dobbiamo fare con una grandissima responsabilità, perché ha delle ricadute di carattere sociale, di carattere ambientale e ovviamente anche di carattere economico. Quindi quando l'abbiamo pensato abbiamo fatto una gara importante tra 10 studi di architettura, perché proprio volevamo quanto possibile allargare, avere quante più idee possibile, perché è, come ripeto, un impegno molto importante intervenire sul territorio. Quindi abbiamo chiamato 10 studi di architettura che hanno fatto una gara, hanno proposto delle idee, alcune condivisibili, altre un po' meno, però fanno parte sempre della intelligenza, se vogliamo, architettonica degli studi, e quindi abbiamo visto alcune proposte, come abbiamo potuto vedere anche in alcune fotografie, dalle navi sull'area. Abbiamo avuto anche dei grandi satelliti, abbiamo avuto delle astronavi appoggiate sull'acqua, quindi ognuno ha pensato le cose migliori. Noi abbiamo ritenuto opportuno scegliere il progetto che aderisse quanto più possibile al progetto approvato nel 2014, che non stravolgesse quanto già deliberato, ma che ovviamente apportasse delle modifiche, perché è agli occhi di tutti quello che è successo negli ultimi 5, 6, 7 anni ha modificato completamente il mercato immobiliare. Dal 2014 al 2023 è ovvio che ci sono stati grandissimi cambiamenti, quindi abbiamo cercato di adeguare il progetto senza stravolgere niente. Noi siamo molto contenti di poter intervenire in quest'area qui, conosciamo bene il territorio, possiamo fare un grandissimo lavoro, quindi siamo ben lieti di mettere la nostra esperienza, siamo un gruppo che fa circa 400 milioni di fatturato, quindi abbiamo le capacità e la portanza di poter fare un ottimo lavoro, e quindi non vediamo l'ora di partire e siamo contenti di essere qua. Grazie e buona serata. Chiamo adesso l'architetto Stefano Boninsegna, progettista Genius Loci Architettura, per l'illustrazione del progetto. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie al sindaco, grazie a tutti voi di essere qui, così vi raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto in questo ultimo anno, perché è stata, come dicevano i responsabili di Costim, è stata un'esperienza molto bella, fin dalle fasi concorsuali, è stata una possibilità importante perché il recupero dell'area dismessa, la rigenerazione urbana è sicuramente uno dei temi più interessanti nel, diciamo, nel nostro lavoro, nel nostro mestiere. Sono Stefano Boninsegna, uno dei soci di GLA, Genitrice Architettura, come Paolo Cozzolino, anche lui è coprogettista di questo intervento molto importante. Va bene, iniziamo un po' a raccontarlo. Allora, qui intanto vediamo le immagini conoscete tutti, è un edificio totalmente abbandonato, dismesso, quindi il progetto di Masterplan vuole ridisegnare il waterfront di questi ex cantieri. È un waterfront importante, sono 600 metri, è un'area di 6 ettari all'incirca, quindi è un'area che crea una cesura totale, completa, da Levante verso Ponente. Di fatto proprio non c'è il collegamento, quindi il recupero di quest'area è veramente, veramente fondamentale. L'altro aspetto molto importante è quando lavoriamo sulla regenerazione di un'area così importante, di 6 ettari, è un dovere lavorare su queste aree, è un'opportunità fantastica, ma la regenerazione significa creare socialità urbana, significa creare opportunità, quindi partire da un luogo abbandonato e farlo tornare a vivere e creare opportunità è sicuramente una cosa fantastica, e quindi è un'opportunità per tutti noi, per tutti noi che siamo qua. Qui vedete un po' quelle che sono già subito un'immagine di riferimento. Il concetto è che noi abbiamo pensato di creare, quindi riaprire questo spazio, quindi creare un collegamento, creare un percorso che sia un percorso lungo il mare, una piazza fantastica che sarà un luogo di aggregazione. Quindi l'idea è proprio di fare un progetto di rigenerazione, quindi creare un luogo di aggregazione e non uno spazio, ossia non una marina solo per aspetti turistici. La nostra idea è proprio quella di creare un luogo per la città. Non a caso quello che viene riportato in questa slide è stato proprio un po' il concetto con cui noi abbiamo raccontato fin dall'inizio il progetto, ossia noi abbiamo detto: immaginiamo un luogo che vada oltre il servizio per i diportisti, che sia vivo, gioioso, fortemente integrato con il contesto e con gli abitanti di Pietraligure. Questo è stato proprio il nostro momento iniziale, quando abbiamo iniziato a pensare e a porsi per questo lavoro, e speriamo che il nostro progetto possa veramente fare questo, no? Possa portare un nuovo concetto di socialità urbana, una nuova cultura sostenibile del territorio, e quindi fare di Pietraligure un luogo, un comune, un villaggio veramente che abbia un approccio culturale completamente diverso. Qui vedete quello che è proprio il master plan, quindi vedete quelle che sono le funzioni, le attività, quindi l'idea è quella di creare un mix di attività pubbliche e private e quindi di creare sempre un percorso molto, molto vario, variegato. Le funzioni sono esattamente quelle che sono previste dall'attuale piano approvato, quindi di fatto stiamo semplicemente abbiamo semplicemente rivisto concettualmente, ma non è cambiato niente, sia da un punto di vista di densità edilizia, sia da un punto di vista proprio di funzioni che abbiamo collocato. E quindi poi lo vediamo meglio anche in una slide successiva. Venendo da Levante verso Ponente potete vedere quello che sarà proprio tutta la lettura di questo spazio, il percorso, quindi il recupero dell'edificio denominato Esmensa, che diventerà un edificio di fatto pubblico, con funzioni pubbliche, la parte di hotel che abbiamo considerato di mettere quasi sulla punta della diga di sottoflutto. Poi la cosa più importante, proprio noi vogliamo recuperare, come vi ho detto, Levante e Ponente, quindi abbiamo lavorato molto sulla piazza, quella che chiamiamo la piazza di Levante, che sarà veramente per noi un luogo di incontro, uno spazio. Vedete che abbiamo considerato di collocare del verde, quindi l'idea è che questo spazio possa essere vissuto sempre, 12 mesi l'anno, anche d'estate, quindi spazi verdi dove si possono portare i bambini a giocare, dove gli anziani possono comunque riposarsi, ovviamente rilassarsi, quindi tutto meno che l'idea di uno spazio che è soltanto cementificato, uno spazio quindi che d'estate poi si arricchisce con eventi, si arricchisce con la possibilità appunto concerti e tutto quello che propriamente nella buona stagione più facilmente accade. Questo spazio poi entra in relazione con l'edificio esistente che verrà recuperato, l'edificio vincolato, dove al piano terreno abbiamo considerato di avere proprio un'area mercatale, quindi un mercato rionale, ossia quello spazio può essere percorso, sto parlando di lo spazio dove vedete adesso la, la manina sopra, quindi lo spazio può essere percorso, può essere attraversato, lo spazio pubblico a tutti gli effetti, quindi il percorso potrà lambire e quindi andare su tutto quello che è, diciamo, il percorso lungomare, oppure attraversarlo e poi trovare le residenze che comunque sono residenze dove sarà, anche questi saranno spazi pubblici, perché tutto quello che voi vedete, a parte i verdi immediatamente di pertinenza, saranno percorribili. Quindi il percorso prosegue, un percorso commerciale, un percorso che trova anche ai livelli bassi delle porzioni residenziali e del commerciale, per arrivare poi alla parte di nuovo, quindi dopo la piazza di Levante, che è uno spazio pubblico, avremo quello che abbiamo definito il parco di Ponente, che quindi troviamo nella parte terminale, in cui abbiamo pensato di avere, ci sarà un'area sportiva importante, un'area salute, quindi è un elemento veramente veramente importante che contribuirà a dare la gioia a questo spazio. Ovviamente poi abbiamo anche il cantiere nautico, che è sempre la parte terminale. Qui vedete un po' meglio, no, il concetto, tutto quello, questa, diciamo, immagine tridimensionale, vedete meglio quello che ho appena espresso. Quindi innanzitutto i collegamenti, l'idea è quella che la ricucitura della, di Pietraligure, della città, del centro, avviene quindi camminando dal Giuseppe Garibaldi, uno arriverà in questa piazza, poi la potrà percorrere, avete visto nelle immagini prima questa piazza dove abbiamo anche immaginato delle fontane, dei giochi d'acqua, quindi veramente un luogo vivo e gioioso, e poi per correndo uno trova, quindi inizialmente avrà l'hotel e poi gli altri componenti dell'intervento che ho appena descritto, quindi la componente residenziale, la parte commerciale e la parte terminale con il grande parco. Nel parco è stato anche considerato di avere tra le varie attività sportive, Pietraligure è molto importante in questo momento, tutta la parte del mountain bike, e quindi l'idea è stata concordata con l'amministrazione di posizionare anche una pista di pump track, quindi che potrà contribuire allo sviluppo, diciamo, di questa componente sportiva importante. Un altro degli elementi molto importanti sono anche i collegamenti che vogliamo ristabilire, quindi l'idea, voi vedete quelle frecce con il collegamento, quindi il percorso, il sottosuolo che collega la ferrovia con quello che sarà diciamo la marina, l'abitato, l'alta riconduzione della città più a ponente, e più noi avremo, diciamo, un elemento di collegamento in salita che porta sopra la collinetta a sinistra, quella che poi su cui viene posto il parco, e quindi poi quel percorso ideale continuerà e proseguirà diciamo verso ponente. Ancora un po' di numeri, i numeri comunque sono importanti, spazi verdi moltissimi, 11.000 metri quadri di verde pubblico e privato, parcheggi, oltre 700 posti auto, di cui 350 pubblici, numeri residenziali sono esattamente quelli che abbiamo ereditato dal progetto precedente, ormeggi marina, 500 posti barca. La cosa più importante, l'intervento è un intervento che è veramente basato sulla sostenibilità, avremo degli enti terzi che, quindi quando parliamo di certificazioni LEED, WELL, significa soggetti che valutano quelli che sono, diciamo, i nostri interventi come diciamo, edilizia circolare, il modo in cui realizzeremo il tutto, e che poi certificheranno veramente questo processo di sostenibilità, che non è soltanto raccontato ma veramente avverrà. L'altra cosa evidente è la posizione strategica, siamo a un attimo da Piazza Vittorio Emanuele, 50 metri dalla stazione, quindi l'idea è proprio di un luogo dove dedicato proprio anche alla mobilità sostenibile, quindi bicicletta, skating, corsa, quindi tutto è concepito con un equilibrio nuovo, quello che pensiamo un modo di vivere diverso, quindi quello che diciamo proprio un nuovo modo di vivere la città. Quindi, importantissimo, come abbiamo detto, il recupero di una città, di un'area dismessa, di quello che era un escantiere, come abbiamo detto, deve essere, è comunque un momento di gioia, perché significa andare a restituire qualcosa che oggi è negato, e pensiamo che il nostro progetto possa farlo nel migliore dei modi, perché comunque avremo tutta una serie di attività, funzioni che potranno essere usufruite tutto l'anno. Continuo a dire, non è una marina pensata solo per i diportisti, è un luogo urbano pensato per Pietraligure. Queste sono ancora immagini che vi fanno vedere un po' quelle che sono ancora ovviamente in fase preliminare, ma questo è l'albergo che avremo, l'idea di avere un albergo, come vi ho fatto vedere, proprio sulla punta, gli abbiamo dato questa forma inclinata, stiamo cercando di privilegiare tutti gli affacci verso il mare, vedete che bene o male sia a Levante che a Ponente tutte le camere avranno la possibilità di avere affacci privilegiati verso il mare. È un albergo che pensiamo possa portare, diciamo, migliorare il livello di ospitalità del luogo, e comunque, come tutti gli alberghi oggi, non è un albergo che sarà utilizzato soltanto da coloro che andranno a stare nell'albergo, sarà un luogo pubblico. Abbiamo immaginato di avere quel rooftop dove avremo un bar dove tutte le persone potranno andare la sera, lo stesso a piano terra avremo aree comuni, che sono aree comuni vivibili da tutti. Qui vedete quello che vi ho detto prima, diciamo la parte terminale, quello che è che chiamiamo il parco urbano, quindi campi da paddle, la parte spa wellness che è anche ipogea, quindi ci saranno degli ambienti che rimangono sotto, e vedete sulla destra il pump track. Ovviamente tutto questo poi, come dire, è condito anche da degli affacci straordinari verso il mare, quindi è veramente un posto magnifico. E poi vedete in basso quello che sarà, diciamo, la parte del cantiere. Ancora una vista della piazza, la piazza di Levante. Abbiamo immaginato una piazza diciamo, da un punto di vista, ovviamente non sarà una vera calata per le barche verso il mare, però vogliamo raccontare questo, quindi ci immaginiamo che le persone la sera possano quasi immaginarsi, no, di fare una passeggiata, di portare le barche nel mare, quindi una scesa naturale verso il mare, anche se non lo sarà. Vedete il piccolo porticciolo che incrementa, diciamo, la marina più ampia, che è pensato anche al servizio della albergo, e come dicevo la piazza entra proprio in collegamento sia con l'abitato esistente di Pietraligure, sia col nuovo spazio, diciamo tutta l'area mercatale che abbiamo immaginato nell'edificio vincolato che verrà recuperato. Questa ancora è un'immagine dell'albergo, vedete tutta la parte verde con la piscina, tutto quello che saranno quindi gli spazi al servizio dell'albergo, la passeggiata che sarà ovviamente una passeggiata pubblica, tutto quello che stiamo mostrando è assolutamente fruibile da tutti, e quindi vedete il collegamento anche con l'abitato esistente e l'edificio, diciamo l'ex mensa che sarà recuperato. Grazie molto. Bene, noi volevamo farvi vedere questo, ci sarà adesso, prima di concludere, ancora un video che andrà a completare la spenta di rotazione. Chiaro? Voce! Scusate. Pronto? Sì, scusate, dicevo, siamo alla fine della dimostrazione, c'è ancora un video che adesso concluderà la presentazione. E vogliamo dirvi che questo è l'inizio di un percorso che dovremo fare e dove avremo altre occasioni per confrontarci anche in maniera diversa su questo progetto, magari con riunioni o con qualcosa. Certamente il progetto è un progetto importante, è un progetto dove andremo magari ancora a vedere qualcosa che da affinare, però certamente avete visto e la società ha dichiarato un grosso impegno verso questa realizzazione. Quindi io vi dico ancora, e perché mi pare l'abbia detto anche l'amministratore delegato, cioè i progetti che sono stati fatti nel loro concorso di idee sono tanti, e ne è uscito uno che è stato, e che è quello che avete nel manifestino di questa sera, che proprio non c'entra niente con quello che abbiamo visto noi e di cui abbiamo discusso noi con la proprietà. Quindi questo è quello che eventualmente su quale bisogna discutere. La serata credo che sia servita quella, vi daremo un saluto con quella adesso proiezione che vedrete, e vi ringrazio ancora di essere stati con noi. No, dobbiamo anche parlare! Bravo! Avremo no, occasione di parlare. No, ma quando ci... Noi sapevamo con... Consigliere Carrara, sapevamo che lei avrebbe fatto il guastatore. Stasera c'era scritto illustrazione, non c'era scritto altro. Ma quando ci ricapita di avere qui l'architetto Boninsegna, ma scusate, ma quando ci ricapita? Abbiamo diritto di parlare, tutti! Abbiamo diritto di replicare, ogni cittadino ha diritto di replicare, perché questa non è un'assemblea della tua lista, è un'assemblea del comune. E allora ho diritto, visto che sono anche stato citato. Tutti i cittadini hanno diritto di dire la loro. Tutti i cittadini. Allora. No. Allora, se ve ne volete andare, questa è la vostra democrazia. Ricordate che nel manifesto che ha istituito questa assemblea c'è scritto Comune di Pietraligure, non Lista Civica De Vincenzi. È un'assemblea pubblica, aperta al pubblico, con il contributo di ognuno. Perché avete capito tutti quello che non volete fare nessuna domanda, non volete fare nessuna osservazione. Chi va bene così? E allora io ho qualcosa da dire, perché sono stato citato da De Vincenzi e ho diritto di replicare. Va bene? Presidente, l'architetto, a noi cittadini quando capita di avere qui questo l'amministratore delegato e l'architetto? Abbiamo qualche domanda, perché non rispondete? Oh, ma mi sembra, cioè, veramente fuori luogo vedervi andare via. No, non è un... La ringrazio infinitamente per essere tornato a sedersi. Vedete voi. Per il quale c'era stato un grande assalto. L'avete visto contro il Maremo? Non c'è. Questo filmato si riferisce a un non progetto, perché in comune, sono andato a vedere ieri, non c'è niente. All'ufficio edilizia privata non c'è niente. Ho chiesto l'accesso agli atti, non c'è niente, nonostante che questo progetto sia stato protocollato giovedì scorso, non c'è, non ho avuto la possibilità di visionarlo, va bene? Ma ricordate, architetto, questo non è un progetto, è un'ipotesi progettuale che è ben diversa, e un'ipotesi progettuale vuol dire che il giorno dopo le elezioni, se dicono che non va bene, lo possono cambiare e stravolgere. Perché non è un progetto, non vincola nessuno e sono liberi di fare quello che vogliono. Secondo, mi sembra di aver visto quello che facevano vedere quando si andavano a fare il touring dall'Unione Sovietica, e cioè in Unione Sovietica, quando c'era l'Unione Sovietica, ti facevano vedere solo le cose belle. Non ti facevano vedere le cose brutte, e ce n'erano, e uno andava via dicendo quante belle cose. Io ho visto palme, ho visto campi da tennis, guarda caso non ho visto i palazzi, guarda caso non li abbiamo visti, ne abbiamo visti di te, sto parlando io, poi venga lei. Primo, no. Secondo, De Vincenzi mi dice, l'hai approvato anche tu, È vero, l'ho trovata anch'io nel 2013, per disciplina di gruppo. Ma attenzione, rivendico questa possibilità di aver cambiato, perché nel 2014, prima delle elezioni del 2014, sono salito su questo palco a dire che disconosceva assolutamente quel progetto, perché avendo esaminato e studiato meglio, era un progetto, quello attuale, di questo totalmente pieno di case, e lo disconoscevo. De Vincenzi, hai la memoria corta, non è da adesso che disconosco questo progetto, sono 10 anni che lo combatto, perché questi signori, come quelli di prima, volevano costruire, costruire e costruire, mentre io invece ritengo che sia la città che ha bisogno di quelle aree. Le aree del cantiere devono servire per questa città. Non noi dobbiamo subire quello che vogliono fare loro, perché vogliono riempire il cantiere di casa. Questa è la realtà, è questa la realtà. Vi faccio ancora un esempio, perché così voi tutti dovete sapere le cose come stanno. Nel 2014 è stato fatto il progetto con il porto, va bene? Porto più cantiere, sono andato a vedere io, il computo metrico costavano 33 milioni di euro, va bene? Bene, Colaninno ci dice, siccome costa 33 milioni di euro, non siamo filantropi, abbiamo bisogno di una compensazione in edilizia. Allora gli si è data la possibilità, per compensare i 33 milioni di euro del porto e del cantiere, di fare 200 appartamenti, un'enormità, va bene? Attenzione, nel 2010-2014 il costo per fare il porto e il cantiere, ripeto, era 33 milioni di euro. Oggi, 2024, può essere sostenibile fare con 33 milioni di euro il porto e il cantiere? No! E allora facciamo la proporzione. Se nel 2014 con 33 milioni di euro in compensazione volevamo 200 appartamenti, nel 2014, quando i soldi necessari per fare queste opere saranno almeno 50 milioni, a quanti appartamenti hanno, di quanti appartamenti hanno bisogno per fare questa compensazione? E quindi questo progetto Bergo, ma dove stiamo? No, io avevo piacere di fare due parole con lei, perché da cittadina la prima cosa che mi è venuta in mente è come penso non mi aspetto assolutamente questa cosa stasera. Per esempio, come fate a fare tutta questa opera che è chiuso da 3 lati e mezzo questa area? Voi avete fatto quelle passerelle, ma lei è la prima volta che viene qui a Pietraligure, no? Secondo lei faccio un progetto? Non lo so, no, ma non è un progetto, no, non è un progetto, no, no, non è un progetto. Questa è un'idea progettuale, è quello che ci ha scompensati tutto quanto, perché il progetto c'era, sentir parlare di un'idea progettuale nel 2024 siamo rimasti spiazzati, tutti quanti, è stato presentato male, è stato presentato male. Il fatto che lei mi dica che è un'idea progettuale e mi chiede, lei è un architetto, giusto? Sì, sono un architetto, ma non costruisco case nuove, perché io mi occupo, io mi occupo di rigenerazione urbana. È veramente, guardi, è molto sì, perché quello che ci avete dato da vedere stasera non è niente, perché mettere 2 alberelli sui balconi tipo bosco verticale non ci serve. E non ci serve. E con questo vi ho detto tutto. Bravo! Bravo, bravo. Perché non parlo? Ciao ragazzi. Certo. Thank you.